ricominciare a volare senza protezione, senza parare. Questa leggera soddisfazione, ho paura che ancora ho un'illusione. Se stavolta andrò fino in fondo, urlerò di nuovo contro il mondo. Cogno l'occasione per farmi vedere, ma niente è più strano di un essere umano. Guardami, questo è un punto inutile, e mi accorgo che troppo lontano, morto, senza corpo. Giochi di fantasia, inutile utopia. Non è una cortesia essere umano. Guardami, questo è un punto inutile, e mi accorgo.